Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. YouTube Social Network. Eccoci ancora insieme con la seconda ora in diretta di RadioTube, la seconda ora in diretta del nostro sabato pomeriggio, dopo l'ora di RadioTube Social Village, l'ora di RadioTube Social Network. Mi fa molto piacere il messaggio di Alice da Bologna, fatemi rimettere gli occhiali che non ci vedo da lontano, Allora, che ci ha scritto: musica stupenda questo pomeriggio, grazie Radio 24, grazie Alice. Ma perché ha scritto musica stupenda? Perché abbiamo incontrato insieme Francesco Guccini e abbiamo parlato del disco a lui dedicato, Note di Viaggio, volume 2, quindi abbiamo sentito delle bellissime canzoni di Francesco Guccini rifatte da Zucchero, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Vinicio Capossela. Abbiamo riascoltato un po' di Oasis, un pochino, perché abbiamo parlato del libro dei trentenni Ci Vediamo all'uscita, edito da Sperling e Kupfer. Qualcuno mi dice mi cadi sul Walkman. Beh, ma ragazzi, però adesso non so come dire, parlando uno si può anche incastrare. Ma come siete sempre puntigliosi, ascoltatori di Radio 24. Oh signor, e abbiamo incontrato Piero Sidoti, cantautore che adoro, e Orietta Berti. Ma impariamo la leggerezza da Orietta Berti. Impariamo un po' di leggerezza. 349-238-6666. Anche per essere puntigliosi, non importa il numero per i vostri SMS e WhatsApp, e chiocciola Marta Cagnola su Twitter e su Instagram per tenerci compagnia anche questa seconda ora. Ma non sono in studio da sola, perché accanto, si fa per dire, perché dobbiamo mantenere 2,40 metri tra un microfono e l'altro, c'è Gabriele Ferraresi. Bentornato Gabriele, come sono contenta di averti in studio. Che meraviglia, grazie ha detto Marta. Che meraviglia anche lui. Esatto, che meraviglia, grazie Marta dell'invito, grazie a tutte quelle e quelli che ci stanno ascoltando oggi pomeriggio. Io sono molto contenta di tornare a avere, finché si può, vista la situazione, i nostri co-conduttori d'eccezione in studio. Ci eravamo visti nel periodo in cui usciva il tuo Made in Italy, manuale del trash italiano, che hai pubblicato con il Saggiatore. L'abbiamo un po' tenuto a battesimo. Che è successo questo libro? Stai ancora in tournée? Ancora in tournée, davvero. E tra l'altro è una tournée che io sono davvero, adesso non voglio fare l'aziendalista perché non lavoro qui comunque, però grazie, perché davvero sono stato ospite a te, sei stato Gianluca Nicoletti, con cui abbiamo fatto una trasmissione bellissima sua parlando del libro, e poi il libro effettivamente è andato benissimo, davvero. Mi sento un po' Fabio Fazio. Ma quando lo sei stata, sei una Fabia Fazia. Una Fabia Fazia. Beh, devo dire che lo chiedevo prima a Gabriele Ferraresi, perché io vedo le tue storie su Instagram, fai ancora presentazioni, certo, del libro in giro, sì, per l'Italia. Come funziona adesso con le presentazioni dei libri? Si riesce ancora a fare presentazioni in pubblico? Allora, sì e no, nel senso che, diciamo, nella parte nelle librerie, all'interno, al chiuso, è ancora un po' complicato. Uh-huh. Mentre all'aperto, e davvero l'Italia è piena di posti meravigliosi all'aperto dove si possono ospitare presentazioni, finché il tempo regge si possono fare. Per esempio, ne ho fatta una di recente ad Ascoli Piceno. Ho visto delle bellissime storie. Un po' davvero, ai chiostri di Leonardo, posto di una bellezza da piangere, però eravamo tutti all'aperto. Ci sono stato io, poi c'è stato uno studioso di Dante molto alto assieme a Ferroni, che è un altro studioso di Dante, insomma delle persone davvero che hanno studiato, non me, però bellissimo davvero. E poi adesso hai in programma? Adesso a Cuneo, saremo in tournée a Cuneo e poi chissà dove, vediamo. Beh, belli questi segnali di normalità, sempre nell'attenzione. Certo, sempre all'aperto soprattutto, davvero, l'inverno potrebbe essere un po'... Diciamo, noi la prendiamo un po' alla volta, prendiamo quello che c'è con tutte le misure di sicurezza, tutte le cose fatte per bene. Parliamo un po' dei video della settimana, dai, ti faccio subito sentire qualcosa che mi ha molto colpito, eccola qua. Buongiorno ragazzi, mi potete dire sono incoerente, mi potete dire la qualsiasi, però oggi l'unico mio messaggio è dire: il Covid c'è, indossiamo la mascherina, pensiamo alla nostra salute e a tutto quanto. Io quella volta, scherzando spontaneamente, ripeto per l'ennesima volta, ho detto il Covid non c'è, ma adesso siamo messi male, quindi in primis ci ho sempre creduto, abbiamo scherzato, abbiamo riso, anche altre persone hanno fatto di tutto e di più e nessuno li ha mai criticati. Ho fatto il gioco io, ho detto quella frase io e tutti a tirarmi sassi. La signora Angela Chianello, che durante la prima puntata della nuova stagione di Live Non è la D'Urso in collegamento da Mondello aveva spiegato di non poter lasciare la Sicilia perché aveva qualche problema con la giustizia, invece adesso può riprendere l'aereo, ha riconquistato la libertà e soprattutto ha spiegato una cosa molto interessante. Lei era diventata famosa quest'estate con quella frase che poi avevano ripreso tutti, era diventata un meme su Instagram: non ce n'è Covid. Esatto. Ecco, e a un certo punto questa frase era un po' sfuggita dalla frase un po' stupidina. Lei stessa diceva che l'aveva detto quasi per scherzo. Ma allora di qui dipende sempre molto dai registri. Insomma, non tutti siamo abituati a usare differenti registri rispetto alle persone con cui ci confrontiamo, con cui ci incontriamo. La signora Angela ha usato un registro assolutamente colloquiale, che sarebbe stato normalissimo con l'edicolante del suo paese o con un suo parente nella bellissima Sicilia o a Mondello o dov'era. E purtroppo però c'è poi il cortocircuito quando quello stesso registro lo usi con le telecamere, non mi ricordo più di che programma, era un programma del pomeriggio forse della D'Urso, non mi ricordo di preciso. Credo proprio di sì. E in sostanza diciamo avviene il cortocircuito perché poi quel messaggio della signora Angela, che non ha nessuna colpa, è semplicemente una signora che vuole prendere un po' di sole d'estate in spiaggia, in una spiaggia bellissima, poi diciamo esplode, viene diciamo recapitato a una serie di persone che lo decifrano in una maniera diversa, che siamo noi, e c'è qualcuno poi che la tratta come, insomma, non dico come una scema, però insomma il senso è quello, o come un irresponsabile quantomeno, e invece chi cerca un attimo di capire che insomma è tutta una questione di cornici in cui mettiamo dentro quello che diciamo. Sì, devo dire che la cosa che mi ha un po' fatto impressione è stato un po' che questa frase, che era una frase un po' stupida, fosse diventata un emblema per tante cose e utilizzata così anche a sproposito. Poi il fatto che molti si fossero scandalizzati perché la signora Angela aveva aperto un Instagram e ha avuto 177.000 follower. Ma speriamo che ne abbia 1.177.000. Ma se convince la gente a mettersi la mascherina, anche 2 milioni. Ma io certo. sono contenta se convince la gente a mettersi la mascherina. Comunque la signora Angela ha veramente un sacco di follower. Tra l'altro, la cosa assurda era che l'altro giorno stavo cercando il suo account di Instagram e ci sono tantissimi fake. Cioè si fa fatica a trovare l'account di Angela da Mondello perché non so, ci saranno 50 persone che si spacciano per lei. Beh, ennesimo segnale del successo questo, diciamo. Ma sì, poi devo dire che anche lì io sono sempre dell'idea che bisogna sai qual era la critica sul Walkman? Perché lo pronunciavo con la L. Vabbè, però, ma perché in italiano lo diciamo così? Ma sì. No, dicevo, la leggerezza è perché qualcuno diceva: ah, perché è mai possibile che una persona del genere abbia 100.000 follower? Perché no? Ma perché no? Tutto sommato, sono quelle mode. Poi magari tra qualche tempo non ci ricorderemo più di lei, ci sarà un altro tra qualche tempo, probabilmente, davvero io le auguro di avere una lunga carriera nello spettacolo dove preferisce la signora, però probabilmente davvero, ma non tra 3 mesi, tra 2, Insomma, sono fenomeni transitori, esatto, e così come sono arrivati andranno. Però l'importante è che lei adesso abbia detto che ci vuole la mascherina. Questa cosa mi rende molto serena, quindi non potrà più essere utilizzata come bandiera. Non è più cattiva. No, va bene. Signora Angela, sono contenta che lei abbia cambiato idea. Allora, facciamo una breve pausa, perché poi vorrei parlare ancora un po' di cattiverie in rete e un po' di persone che sono diventate famose anche grazie alla rete e che adesso però forse non piacciono più come prima. Non lo so. Pausa e poi rifletteremo insieme. Radio Tube Social Network. Eccoci ancora insieme, abbiamo parlato di Angela da Mondello, che da non c'è Covid adesso dice che c'è, soprattutto con aria giustamente seria dice mettetevi la mascherina. Anche lei si è resa conto che era stata utilizzata come bandiera e forse questa cosa, anzi sicuramente, era andata molto al di là di quello che pensava lei. La verità è che se hai davanti una telecamera devi comunque stare attento, perché non lo sai cosa succederà. Esatto, guarda. E allora, la signora Angela mi ha, tra l'altro, fatto venire in mente, tu te le ricordi, le due ragazze in spiaggia a Ostia? Birra in Calippo. Mamma mia, che meraviglia. Certo, siamo andati avanti mesi con la birra in Calippo. E poi sono passati anche tanti anni, tanto per sentirci vecchi. 10 anni quasi. Era proprio stato uno dei primi virali di YouTube. C'è stato un anniversario in questo periodo. Allora, altro personaggio di cui si è parlato molto in rete, ovviamente in questo caso non è un personaggio della rete, ma un uomo politico che ha anche importanti responsabilità istituzionali, è il presidente della Campania, Vincenzo De Luca. Qualche mese fa i suoi video erano condivisissimi anche con il sorriso, no? Perché diceva, certo, se vi assembrate io mando il lanciafiamme. Adesso l'atteggiamento nei confronti di Vincenzo De Luca sembra cambiato. Ecco qua. Allora possiamo parlare di tutto, di investimenti, di economia, di diritti televisivi, però per cortesia non parlate più di valori sportivi, perché chi non ha lealtà e onore non può parlare di sport. Deve parlare di altre cose. Era una piccola puntualizzazione che mi pareva doveroso fare, visto che non sono neanche arrivati i ringraziamenti che dovevano essere rivolti alle ASL e al Napoli, perché abbiamo evitato di contagiare Ronaldo. Provate a immaginare. C'è stata già l'esperienza del Genoa, per la verità. Avesse fatto il Napoli la stessa cosa, beh, andiamo in allegria, tutti positivi, di virus e di spirito, a fare l'incontro ai palloni. E poi magari dopo una settimana Ronaldo ha conquistato i titoli del New York Times per la gloria dell'Italia. Io sulla questione Juve-Napoli e la questione del Covid non dico nulla, perché ti dico la verità, non ho mica capito dove sta la ragione, dovevano partire, non dovevano partire. Ho cercato di farmi spiegare da un amico che era da me lo scorso fine settimana e niente, non ho capito cosa bisognava fare. È troppo complicato per me, che non mi interesso di calcio. Per me, guarda Marta, anche per me è complicato. E diciamo che è un conflitto tra protocolli e tra ASL, da cui diciamo non usciremo né tu né io in questo momento, infatti, né vogliamo farlo. Io poi non saprei cosa rispondere, perché è una cosa complicatissima e che riguarda un ambito che non frequento molto. Ma siccome frequento l'ambito della comunicazione, ho l'impressione che soprattutto sui social, così, l'entusiasmo iniziale nei confronti dei video del governatore De Luca, del presidente De Luca, si è un po' scemato, adesso invece venga criticato molto di più. Ma certo, perché con i tormentoni, quelli che una volta chiamavamo tormentoni, che erano in radio, in TV o online, e che poi abbiamo iniziato a chiamare meme, e inevitabilmente ci si stufa. E questo è il fatto. E De Luca, per quanto probabilmente nella regione che governa abbia dei meriti e ci sia un elettorato che lo apprezza, dal punto non di ce vista... l'avesse, non avrebbe, esatto, avuto non avrebbe questo risultato elettorale, dei famosi risultati bulgari. E diciamo, dal punto di vista della comunicazione, ha una comunicazione davvero molto bold, molto grossa, una cosa che non puoi non vedere. E inevitabilmente questo tipo di comunicazione, se inizialmente è molto interessante, tutti la condividiamo, che se non abitiamo a Salerno ma abitiamo a, a Cervia o a Carate Brianza, ci diverte, ci interessa, ci incuriosisce. E il problema è poi quando diciamo questo tipo di comunicazione deve essere messo alla prova della realtà, dei fatti. E quando i fatti tendono a smentire questa comunicazione molto, diciamo, molto tronfia, molto sicura di sé, molto faccio tutto io, ok? Inevitabilmente inizia a esserci qualche crepa in tutto questo. C'è anche da dire che non vediamo l'ora spesso di poter dare contro a qualcuno in rete. E beh, certo, ma questo alla prima defiance. Assolutamente, però questo fai soprattutto per i leader politici, soprattutto come De Luca è. E diciamo, per quel che riguarda la loro comunicazione, diciamo, si appassiscono sempre più in fretta. Pensa a quanto in fretta è scomparso Matteo Salvini, per esempio. Adesso Matteo Salvini è una cosa, però se pensi a 2 anni fa, Matteo Salvini era... Ovviamente non stiamo parlando del suo ruolo di leader, ma della sua centralità nella comunicazione. Nella centralità della comunicazione. E inevitabilmente in piccolo, diciamo, c'è qualcosa di simile in quello che è successo a De Luca. De Luca è stato famosissimo, famosissimo, tutti lo condividevamo, stava simpatico a tutti. Sono bastati quanto? 6 mesi? 5 mesi? 4 mesi? Perché cambiassero alcuni equilibri, stufasse quel tipo di messaggio ad alcune persone, non a tutte, ad alcune, però insomma iniziasse ad appassire un pochino quel tipo di messaggio. Ovviamente non stiamo parlando della centralità in politica, però per quanto riguarda Matteo Salvini, fino a un po' di tempo fa si parlava solo suoi post con la Nutella, con la salsiccia, con adesso molto meno. Possono anche essere ondate, sono momenti in cui davvero questi leader riescono a conquistare con dei contenuti social media. Però diciamo è molto difficile mantenere alta l'attenzione con questo genere di contenuti. Se poi a un certo punto la realtà arriva a presentarti il conto, insomma, può capitare che ci sia qualche crepa in questo monolite. Però come dico sempre io, se non vai mai di moda non passi mai di moda. Quindi questa me la tatuo. Essere molto visibile in certi momenti significa che poi appunto queste ondate passano. E stiamo sempre parlando di comunicazione, magari qualcun altro viene celebrato oppure viene molto condiviso e poi toccherà qualcun altro. Ecco, mi è sembrato che sui suoi video un pochino il vento fosse cambiato, forse anche perché ha toccato il calcio e si sa che il calcio, chi tocca non il calcio, si può toccare. A proposito di calcio, questa settimana è successa una cosa che ha attratto persino la mia attenzione, che cerco di non interessarmi per non irritarmi. Un piccolo audio che introduce il tema. Vergognati buffone. Stiamo parlando di Federico Chiesa, che è passato dalla Fiorentina alla Juventus. Detto bene? Penso di sì. Esce dalla visita medica e viene accolto così da, per la verità, non moltissimi tifosi, che però lo prendono a insulti. E negli stessi giorni il fratello, che si chiama Lorenzo e che ha 16 anni, viene travolto da insulti sui social network. Ora, insultare un ragazzino di 16 anni mi sembra, ecco, totale. Se fossero stati ragazzini a scrivergli messaggi, mi verrebbe voglia veramente di chiedermi come sono stati allevati dai genitori. Ma secondo me c'erano anche tanti adulti a scrivere insulti sui profili di un ragazzino di 16 anni che ha il torto, di essere fratello di un giocatore che è passato da una squadra all'altra, come mi pare che succeda sempre nel calciomercato. Ma diciamo che ha il torto di avere fatto una cosa normale che probabilmente qualunque coetaneo avrebbe fatto a quell'età, ma soprattutto ha il torto di vivere in una famiglia, di una famiglia bella. Adesso, se posso, posso raccontare a te e agli ascoltatori un aneddoto di un paio di anni fa, quando telefono al papà dei due, cioè a Enrico Chiesa. Enrico Chiesa, magari non tutti ricordano, è stato un calciatore molto famoso negli anni 90 e i primi 2000, e nel momento in cui gli telefonavo, suo figlio, il figlio maggiore, era già in rampa di lancio, era già un calciatore abbastanza famoso. In sostanza gli chiedo un'intervista e lui mi dice: guarda, in questo periodo non vorrei tanto parlare, non vorrei uscire perché è più importante mio figlio, è più importante mio figlio grande. Questo per darti l'idea della famiglia in cui sono cresciuti quei due ragazzi, che è una famiglia meravigliosa. Enrico Chiesa è un calciatore straordinario, come ce ne vorrebbero molti di più in Italia, ha due figli meravigliosi, bravissimi, e che si meritano tutto il successo che stanno avendo, e non gli insulti di, insomma, quattro... Sì, persone, ok, ci siamo capiti, però esatto. Diciamo quel genere di persona lì, non molto fortunata, e lasciamogli fare la loro vita, soprattutto se hanno 16 anni o poco di più. Sì, infatti. Queste cose sono successe su tutti i social, in particolare su Instagram, che in questi giorni compie 10 anni, è incredibile. Come è potuto accadere, Marta? Come può essere che stiamo diventando così anziani in un attimo? Allora, cerchiamo di capire un po' come ha cambiato in Instagram il nostro modo di vedere la vita, come ci approcciamo dal punto di vista psicologico, dal punto di vista dell'attitudine a Instagram, e lo facciamo proprio in occasione di questo 10° compleanno. Comincio ad introdurre la nostra prima ospite, che è una psicologa ricercatrice all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e che ha scritto insieme a Giuseppe Riva Psicologia di Instagram, edito da Editoriale San Paolo. Buonasera a Clelia Malighetti. Buonasera Clelia. Buonasera a voi. Buonasera. L'ho detto con calma perché ci sono tante L e lo voglio dire bene. Clelia Malighetti, l'ho detto bene? Ecco. Ha detto benissimo. Allora, intanto le faccio commentare proprio questa cosa che è successa su Instagram. Gli insulti a un ragazzino di 16 anni perché il fratello ha cambiato squadra. È un'eccezione o queste cose succedono? Ma purtroppo queste cose succedono, le ragioni possono essere svariate e diversificate e diverse. Probabilmente le persone sono poco consapevoli delle ripercussioni che il comportamento online ha sulla vita offline. Instagram e i social network hanno comportato una fusione tra mondo online e mondo offline, cioè tutto quello che noi facciamo in rete ha delle ripercussioni nella vita quotidiana e questo all'incontrario, all'inverso. Banalmente tutto ciò che noi pubblichiamo può essere appunto sottoposto ad una valutazione con le visualizzazioni, i commenti e i like. Probabilmente la gente si nasconde un po' dietro questo online senza volto per dare dei commenti, ovviamente in alcuni casi gratuiti e poco adeguati di contenuti, però perché c'è una mancanza di consapevolezza rispetto alle ripercussioni e a tutto quello che noi facciamo online, dove poi va a finire. E nella maggior parte dei casi va a finire all'interno del contesto quotidiano. Tra l'altro, a volte ci dimentichiamo che dall'altra parte non c'è un account, ma c'è esatto. Un'altra persona. In questo caso, peraltro, un ragazzino. Questa cosa forse sì. Instagram un po' ce la fa dimenticare. Sì, c'è una sorta di depersonalizzazione. Si parla appunto solo attraverso delle foto, delle immagini, degli hashtag, e si va diciamo attraverso questi contenuti a veicolare delle immagini che sono poi effettivamente abbastanza costruite, cioè su Instagram manca un po' la spontaneità, si va a pubblicare ovviamente delle immagini che vogliono ricercare un consenso, un'aggregazione di consenso, quindi che si manifestano in like, in commenti, in visualizzazioni, quindi saremo tesi a mostrare qualcosa di bello, di successo, di positivo. Difficilmente andremo, diciamo, a parlare di cose più complicate, più intime, che possono essere poi sottoposte a delle critiche o a delle diverse interpretazioni. Per cui c'è sicuramente questo componente di oggettivazione. Allora, dottoressa Malighetti, io le faccio una confessione, sì, poi faccio io le dico una cosa, sì. Poi è una psicologa, quindi io, allora, le cose che non mi mettono proprio in bellissima luce, magari così con un po' di ironia, le metto sì. Nelle stories. Esatto, sì, allora. E quelle invece proprio nel quello che si chiama feed, cioè le cose che rimangono, sì. No, sì. Lì devo far bella figura. Certo. Lo faccio solo io o succede? No, è un processo che avviene, ma comprensibile. Diciamo che le stories è stata un'introduzione situazione che ha portato un po' la spontaneità sul social. Allora non sono solo io che faccio questa cosa. È la spontaneità del video che tanto si sa che dopo 24 ore sparisce e c'è una piccola, come una piccola fessura sulla vita di tutti i giorni. Questo ha portato più spontaneità sul social che ormai era diventato molto a una ripetizione infinita di selfie, di filtri e di angolazioni perfette. La stories invece è qualcosa più di magari divertente, simpatico, un frammento della mia giornata. Per cui no, è una cosa, sì, è una cosa abbastanza comune. Ecco, allora ho fatto una confessione. Non mi sento sola, non mi sento sola, devo dire che... Allora una cosa che succede, facciamo una brevissima pausa, poi saremo ancora insieme, anche perché vorrei chiedere qualcosa su Instagram, i ragazzi, come possiamo aiutarli a usarlo bene e un po' questa cosa del corpo su Instagram, ne parliamo tra pochissimo. Tutti i mercoledì a Due di Denari parliamo di lavoro. Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri. Tutti i mercoledì parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Ospite fisso di Due di Denari, con studi, ricerche, analisi e consigli. Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro. Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti. Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Radio Tube Social Network. Eccoci ancora insieme per la seconda mezz'ora del nostro Radio Tube Social Network. Sempre nella seconda ora parliamo dell'attualità della rete e dalla rete con un co-conduttore d'eccezione. Questa settimana è tornato con noi Gabriele Ferraresi. Bentornato Gabriele. Buonasera Marta. Che bello avere i co-conduttori in persona. E stiamo parlando un po' in occasione del decimo compleanno di Instagram. Instagram secondo me è... Un social network straordinario, io lo uso con grande passione, mi diverto a fare le stories, non ho ancora imparato a fare i reels. I reels sono difficili. Ho fatto una lezione di reels una decina di giorni fa e ho deciso che devo imparare, ma sono una cosa complessa. È un'altra cosa. Sono dei brevi video di un minuto, ma ci vuole una certa creatività, non sono così come le stories come viene. No, diciamo che sono un sono un po' derivativi rispetto a TikTok. Nel senso, ecco, qui spieghiamo a chi ci ascolta che magari non tutti sanno cosa sono né i reel né TikTok. TikTok è un altro social media dove ci sono video in cui molto spesso si tendono a ricantare in playback canzoni famose e a farci dei video con se stessi. Oppure fare dei video comici. Certo, sì. I reel, diciamo, riprendono un pochino quel tipo di struttura, per cui dei montaggi molto serrati in cui facciamo delle cose buffe. Di solito. E poi, insomma, tecnicamente ti permette di fare delle cose tecniche molto carine, montaggi, inserire canzoni, inserire... Esatto. Però bisogna essere... Bisogna saperlo fare, non è facile. Infatti secondo me stiamo creando una generazione di sedicenni adesso che saranno dei fenomeni del montaggio video. Certo, qualcuno risponderà, già neanche mi volto a guardare i messaggi perché so che qualcuno dirà bisogna avere molto tempo libero. Vero? Però quel tempo libero tra 10 anni dico dopo... sempre, a volte il tempo libero però anche quello che passi seduto in quel luogo in cui spesso talvolta ci capita. Quando mi dicono non ho avuto tempo di rispondere, ma c'è solo anche quei minuti lì in cui uno è solo con i propri pensieri, il tempo libero si trova. No, ma noi abbiamo in collegamento una ricercatrice serissima e parlo di queste cose. Ancora buonasera a Clelia Malighetti. Buonasera Clelia, io sto dicendo delle cose veramente tremende. No, assolutamente. Cioè, più da story di Instagram che da feed di Instagram. Autrice con Giuseppe Riva di psicologia di Instagram per Edizioni San Paolo. Dottoressa Malighetti, lei si occupa di analisi dell'esperienza corporea nell'interazione sociale con la tecnologia. Questo libro, Psicologia di Instagram, ci aiuta anche a capire come Instagram ha cambiato il modo di pensare di chi ci si avvicina, anche perché spesso lo usano i ragazzi, e dobbiamo anche capire noi come si usa per insegnare ai ragazzi a usarlo in maniera corretta, no? Certamente, ma il volume ha proprio questa idea, l'idea di da un lato fornire una panoramica generale di quello che è Instagram, le funzionalità, sottolinearle le opportunità che offre il social e i rischi legati soprattutto da un punto di vista psicologico dell'utilizzo delle social, ma anche fornire una vera e propria guida, strumenti, pratiche, esercizi, box esplicativi per creare un dialogo con i ragazzi e per insegnare a insegnanti e genitori che vedono i propri figli e i propri studenti utilizzare questo social a prevenire possibili rischi legati all'utilizzo del social o proprio comprendere che cosa stanno creando, perché spesso c'è una mancanza di informazione. Diciamo che l'educazione digitale è il primo passo per arrivare ad un utilizzo responsabile e consapevole del social. È molto importante, come dire, non evitare, alla luce magari dei rischi legati all'utilizzo di questo social, magari uno dice vi tolgo il social, che così evitiamo il rischio di... Però questo ha delle implicazioni e delle conseguenze. Allora, a me da ragazza, se dicevano non fare una cosa, mi veniva voglia di farla. Ma tutti, ma anche credo ragazzi, che, ecco, ma anche alla mia età, se mi dicono una cosa non la posso fare, tutto sommato mi viene voglia di farla. Forse non è l'ideale. No, infatti non è l'ideale, ma anche perché verrebbe banalmente escluso da tutto quello che avviene sui social. La socializzazione ad oggi avviene lì, la comunicazione è lì, non si può togliergli lo strumento, ma gli si può insegnare tutta una serie di magari elementi, come utilizzarlo in modo consapevole, sapere che ci sono dei fenomeni, dei rischi, cos'è la privacy, quanto è forse il caso di utilizzarlo questo social e insegnarlo ai ragazzi, ma prima di tutto bisogna insegnarlo ai genitori, tale che poi possano aiutare i ragazzi ad un utilizzo creativo, consapevole e responsabile. Che poi Instagram è un bellissimo social che offre tante opportunità, però ci sono anche tutta una serie di rischi che è importante esserne consapevoli. Sono d'accordo. C'è una cosa che mi un po' mi appassiona, un po' mi demoralizza, non lo so. Su Instagram sono tutti belli, diciamolo. Sì. Cioè su Instagram mettiamo sempre la versione migliore di noi. Il regno del falso sé, come cioè forse Gabriele, noi già partiamo bene che siamo ospite. Belli di nostro. Certo, esatto. Noi non ne abbiamo bisogno. Noi non ne abbiamo bisogno. Esatto. Però gli altri... Noi non abbiamo bisogno di tutti quei filtri che carità, non usiamo cosa mai. Stai dicendo, Marta? Mi sento umiliato. Infatti, stai umiliando qui. Però sono tutti belli. Esatto. Allora, io sono pazza di un account, io sono iscritta al suo account da tempi non sospetti, ma veramente secondo me da anni, perché lui è geniale. Allora, lui prende le immagini di donne bellissime, facciamo l'esempio di Chiara Ferragni su tutte, con vestiti meravigliosi, di alta moda, e li ricrea con quello che ha, Cioè c'è una donna meravigliosa, Hailey Bieber, con un favoloso costume multicolore, rainbow all'uncinetto, e lui lo ricrea attaccandosi con lo scotch delle spugnette da cucina, facendo la foto con la stessa posa, e vi assicuro è perfetto. Si chiama Amy Life. Facciamo una cosa, brevissima pausa, viabilità, e poi lo presentiamo, perché io sono contentissima di conoscerlo anche se a distanza RadioTube. Viabilità, poi siamo ancora insieme con Amy Life. RadioTube Social Network. Sì, ancora insieme abbiamo in linea sempre la dottoressa Malighetti, psicologa, ma anche l'autore di questa straordinaria pagina, di questo straordinario account di Instagram con 1.400.000 follower. Lui si chiama Emanuele, Amy Life. Benvenuto Emanuele. Ciao, io sono una tua fan. Che mi hai fatto. No, ma io sono una tua fan scatenata. Anch'io, cioè, tra l'altro. Diciamo adesso no, durante la pausa siamo... con Gabriele, ma come fai? Cioè, come ti viene, come, no, intanto come ti è venuta l'idea di rifare queste foto, spesso bellissime, ma altrettanto spesso assurde, di queste donne soprattutto con vestiti incredibili che tu ricrei a modo tuo con quello che c'è in casa? Sì, con quello che ho in casa, ma in realtà è nata così per gioco, perché io guardavo queste persone che andavano alle sfilate di moda o eventi importanti come gli Oscar, il Met Gala, e quindi dicevo, ma come si vestono queste? E poi nella mia testa le ricreavo con magari delle cose che avevo in casa, quindi cioè, tipo nella mia testa dicevo, ah, oddio, quella sembra che ha un sacco dell'immondizia, poi ho detto, ma perché non provo a farlo? E l'ho con un sacco dell'immondizia. Con un sacco dell'immondizia. Ha funzionato, ho iniziato a condividere le mie foto, sono diventate virali. E poi c'è stata Cara Delevingne, che è una super modella attrice. Beh. Che ha ricondiviso la mia foto e lei ha tipo 40 milioni di follower. E quindi da un giorno all'altro il mio account è esploso e sono stato contentissimo perché non me l'aspettavo. E da lì ho iniziato a condividere anche tanto la mia vita nelle stories e poi è nato il secondo profilo, appunto, che si chiama Emanuele Ferrari, dove racconto semplicemente la mia vita. E ho trovato tante persone comunque interessate a quello che faccio, a quello che dico, ed è stata la cosa più bella. Tra poco parliamo anche di un altro aspetto che a me piace tantissimo, perché io sono una grande fan non solo di Emanuele, ma anche della nonna della vista Cleria Malighetti. Questo è secondo me un utilizzo estremamente creativo di Instagram, cioè questi ragazzi hanno anche la possibilità di fare qualcosa di estremamente importante, bello, creativo. Che magari noi che abbiamo qualche anno di più, insomma, non possibilità che noi non avevamo. Assolutamente sì, peraltro Emanuele è all'esterno del volume del libro, come esempio di utente di Instagram, portatore di creatività e che ha saputo sfruttare Instagram come laboratorio virtuale di espressione di sé, promozione, condivisione e anche, come dire, stimolazione creativa. Per cui è molto interessante trovarci qui insieme, perché è all'interno proprio del volume, con la sua creatività, la sua capacità proprio di presentarsi, mostrarsi, ma anche con le stories. Quindi ha avuto, secondo me, anche un grande incremento di visualizzazioni, di popolarità, perché ha sfruttato quella spontaneità che poi dicevamo prima che è alla base del social. Sono d'accordo, ascoltiamo un pezzettino di una delle sue ultime stories che ho colto poco fa da Instagram, eccola. Sto andando a trovare la pupa, il problema è che sono le 6 e mi sono scordato che alle 6 c'è il rosario, quindi sicuro starà guardando il rosario. Ciao nonna! Spaventato, ho visto un affarone nero lì davanti. Come nero? La maglia rossa! La maglia rossa! E cosa faccio? Sto qua che tu guardi il rosario. Tu non lo senti. Va bene, io dai. Non lo dico per adagio. Va bene, dai, va bene, allora sto qua. Piove a Lourdes. Ah, piove a Lourdes. Sono con l'ombrello aperto. Ah, ok. Sappiamo anche il meteo di Lourdes. Emanuele, il tuo rapporto con la bis? Con la bis, sì, la mia bisnonna che ha 99 anni e... A parte il fatto che ce la devi abbracciare, perché infatti, è una donna straordinaria, in gambissima, poi si preoccupa anche della tua crescita spirituale, ascoltate insieme il rosario, e questa cosa è perfetta. Ma infatti, tra l'altro, adesso mi manca tanto abbracciarla, perché vorrei troppo, ma è un periodo in cui ovviamente non si può fare. Comunque sì, il rapporto con lei è super speciale e ho deciso appunto di integrarla nelle mie storie di Instagram così molto spontaneamente, perché comunque abita a davvero 3 minuti a piedi da me e quindi vado spesso a trovarla. Ho iniziato a condividerla perché mi sembra comunque assurda la sua storia, il fatto che abbia 99 anni e ancora va a zappare nell'orto tranquillamente, si ascolta il rosario, fa la ciclette, mentre ascolta il rosario fa pure la ginnastica del collo, fa tantissime cose. E ho iniziato a condividerla e per assurdo tantissima gente ha iniziato a dirmi, ma allora appena c'era un giorno che non parlavo di lei, ma allora come sta? Non è che non sta bene? Hanno iniziato tutti a affezionarsi tantissimo. Certo, ti confermo, vogliamo sempre sapere. Anche tu. E la cosa secondo me più bella di questa storia è il fatto che condividerla tanto sui social mi ha portato ad andare a trovarla davvero tantissimo. massimo, cioè più di quanto andavo prima, no? Bravo, e quindi bravo. Consolidato il nostro rapporto. Guarda. E le persone mi iniziavano a scrivere dicendomi: ma guarda, ogni volta che vedo le tue storie, che vai a trovare i nonni, mi viene da andare a trovarli anch'io. Era una cosa che non facevo così spesso e hanno iniziato a farlo. Oh, che commozione! Quello... Guarda, vorrei... Bella... guarda, sì, no, io... riguardo, certo, riguardo a quello che ci sta raccontando Emanuele, vorrei raccontare una piccola cosa personale. Cioè, fai, io 10 anni fa non ero su Instagram, però avevo questa tradizione. C'era il rapimento della nonna. Io tutte... No, era un rapimento bello ovviamente, nel senso che ogni estate andavo a portarla in Liguria, dove passava l'estate, e poi andavo a riprenderla. Però non le dicevo quando andavo a riprenderla ed era una sorpresa. Ma che bello! E allora poi lo devo fare anch'io. Fallo anche tu se puoi, idea. Guarda, davvero. Che, guarda, davvero vorrei fare un sacco di cose con lei. Guarda, fallo che le fai un regalo meraviglioso. E noto che sta peggiorando sempre di più con la vista, con l'udito, con il camminare, ragazzi, no? Ragazzi, vorrei prenderla e portarla. Il problema è che è il periodo di adesso che non me lo permette. Però Emanuele, io devo anche segnalare una cosa importantissima, perché questa tua famiglia così bella, il rapporto con la bis, è diventato anche un libro che è Il sapore dei ricordi, ricette, abbracci e storie di famiglia, e io adesso devo fare tutte le tue ricette. Non vedo, io ti consiglio quella del gorgonzola, che sono le mie preferite. Quelle del gorgonzola. Il gorgonzola sta bene su tutto o quasi. Su tutto, okay. O quasi, esatto. O quasi. Poteva stare proprio bene su tutto, tutto. Comunque, sì, è nato appunto dal nostro rapporto, dal nostro legame. Una sera mentre ero là a mangiare, ho condiviso la foto delle verze che mi fa sempre lei, ovviamente verze del suo orto. E un sacco di gente mi ha scritto: ma come fai le ricette delle verze? Sembrano super buone. Dici questo, dici l'altro. E mentre che la gente me lo chiedeva, lei mi stava raccontando una delle sue storie, che comunque alla fine 99 anni cosa raccontare ne ha. E quindi lì mi è venuta questa idea, ho detto: ma provare a abbinare le due cose. E quindi ne ho parlato con la ragazza che mi segue, della mia agenzia, e poi mi avevano contattato diverse case editrici. Alla fine sono andato da Harper Collins, che hanno sposato la mia idea e mi è piaciuta tantissimo, e da lì è nato, dopo un anno di lavoro, Il sapore dei ricordi, che stupendo. È un libro a cui sono molto molto legato e ci sono affezionato, perché c'è tutta davvero la sua storia, tutti i suoi ricordi, e mi emoziona tantissimo il fatto che la gente possa apprezzare questo libro, perché sono contento di averlo fatto, anche perché poi in un futuro mi rimarranno stampate indelebili. Sono d'accordo, è così. Io ho solo bravissimo, il tempo dei davvero. Saluti e dei ringraziamenti. Devo ringraziare Emanuele Ferrari, Il sapore dei ricordi, Harper Collins. Grazie Emanuele. Grazie. E Clelia Malighetti, psicologia di Instagram. Tutto va d'accordo, Marta. Insieme. Grazie Clelia, grazie Emanuele. Grazie a Gabriele Ferraresi, che è stato con me. Sono in ritardissimo. Grazie a Pietro Lacorte in regia, Alessandro Schirano in redazione. Ci vediamo il sabato prossimo. Ciao. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.